realtà. Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ehi, buongiorno! Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Volevo rassicurarla sul fatto che io vado a casa volentieri, non stasera che devo andare a Bratislava, quanto all'andare a casa rispetto al governo. Siccome io ho letto la Costituzione che lei vuole difendere, le segnalo che c'è una procedura molto semplice: finché c'è la fiducia del Parlamento io rimango a cercare di servire al meglio il mio paese, con buona pace di lei e di quelli che interrompono. Le sia detto con grande affetto benvenuta alla festa dell'unità. Si può votare sì, si può votare no, ma dire che è in gioco la democrazia è una presa in giro nei confronti degli italiani. Renzi è un uomo intelligente, capace, diciamo, è capace anche di riciclarsi, di rimettersi in movimento. Non credo che finirà politicamente, diciamo. Sì o no? Basta con queste ingerenze da parte dei poteri forti. Non è possibile continuare così, con questo balletto, con questo gioco delle date. Ripeto, se continua così finirà che voteremo a Natale. Vabbè, in realtà pare si profili un'altra data, e cioè il 27 novembre, questo ho letto, tra l'altro proprio quel giorno, la domenica sera, porca miseria, con Leonardo Marina saremo al Manzoni di Milano per Platone, la caverna dell'informazione. Siete già tutti invitati il 27 novembre, dunque segnatevi sull'agenda, avete un grandissimo appuntamento con cui si gioca il futuro della democrazia italiana. Al Manzoni di Milano, 27 novembre, Platone. Allora, cari ascoltatori, eccoci qui. No, non cominciate, caro Tonio, la solita fucilata ai maroni del mattino Massimo D'Alema. Non cominciate così, perché dai, il clima, se no, non si rasserena più. Sono le 6:32 minuti, dai che è venerdì, caro Peter Bescapè, è venerdì, dobbiamo ricominciare questa manfrina. È venerdì, Lorenzo Nespoli, capito? Forza Inda, ragazzi, meno male che c'è l'Inter, peraltro, Quando tutto ti va storto, tu pensa una cosa: meno male che c'è l'Inter. 2-0 in casa, 0-2, chiama Milano 0-2, un tempo si facevano questi titoli, 0-2. Allora, siamo qui, Renzi ha avuto un dibattito con il presidente dell'Ampis Muraglia, 3.000 persone, la festa dell'unità a Bologna, contestazioni, vabbè, insomma, ma il solito clima, la festa dell'unità molto combattivo. C'è anche chi l'ha buttata in musica, questo è il genio del ministro Poletti, o meglio il genio di Radio Rock, che ha intercettato il ministro Poletti, uno che già parla come Guccini. Allora cosa potevano fargli cantare se non la locomotiva di Guccini? E Poletti, sentite un po' come si dice. I primi anni del secolo, macchinista ferroviere. Ai. Aspetti, con questo giallo. Tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Dai ministro, dai. Sembrava il treno anch'esso, sì, un mito di progresso lanciato sopra i continenti. lanciato sopra i continenti. Ma lanciato sopra i continenti. Ok. Oh. Quella locomotiva sembrava fosse un mostro strano. E l'uomo dominava. Vabbè, poi Poletti alla fine ce l'abbiamo. No, dice. Con il referendum il progresso. Votate sì per, come la locomotiva. È il progresso. È il futuro. Va bene, dai, alle 6:34 minuti. Voglio salutare e dare un grande abbraccio intanto a Flavia Perina che ritorna buongiorno. Con noi. Buongiorno, come va? Buongiorno, benissimo, benissimo. Tutto siamo bene. Ancora al primo caffè, però va bene. Al primo caffè. E poi un grandissimo, un amico anche di Radio 24, uno scrittore con la sua La Via del Sole. Adesso gli devo fare anche un paio di domande sul suo libro, sul suo ultimo libro. Mauro Corona, buongiorno, come va in buongiorno. Montagna? Come benissimo. Vai in montagna? È a Pordenone, è vero che è a Pordenone? Sì, però oggi anche devo tornare giù alla fiera del libro lì. Ah, Pordenone legge. Mauro Corona, ma perché nell'ultimo libro il protagonista è un diciamo un ricco annoiato? Perché la ricchezza, c'è questa cosa ancora che la ricchezza porta sicuramente noia. Stia attento che siamo sulla radio del Sole 24 Ore, ci ascoltano i ricchi. No, lo disse Brodsky, un premio Nobel certo. della letteratura. Non c'è nessuno tanto annoiato quanto un ricco, perché il denaro compra il tempo. Eccolo. E il tempo è ripetitivo, ma io penso che molti che non arrivano a fine mese e non hanno neanche una paga vorrebbero annoiarsi ed essere ricchi. Appunto, qualche appunto. Volta anche Brodsky la diceva un po' così, era molto poetica se vogliamo, ma poco azzeccata. Ecco, nessuno è tanto annoiato quanto un ricco, questo è un po' il motto, però in realtà esatto, ci sarebbero molti italiani giustamente che vorrebbero annoiarsi parecchio ultimamente. Sì. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento anche visto che è venerdì con Renzi. Ragazzi, se uno esce, prende un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma Forza, gente, accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Li paghiamo. Allora, Flavia Perina, qui abbiamo una lunga marcia verso il referendum. Mannaggia, io non so se gliela faccio a reggere con questo ritmo ogni giorno. Il 27 novembre pare la data, pare che verrà decisa più o meno quella, insomma. La storia è cominciata a marzo, capito? È dura, quindi veramente ormai ci arriveremo con la lingua di fuori dopo aver detto tutto quanto è visibile, forse poi alla fine l'obiettivo è proprio questo, che ci arriveremo così esauriti che ci si arriverà in pochi, che sì. magari alle urne la gente ti sembrerà di aver già votato, insomma, dice no, ma questa cosa l'ho già fatta. L'ho votata a giugno. L'ho già discussa, l'ho già vista. Sì, vedremo, sì. insomma. Tra le date non c'è soltanto l'ultima domenica di novembre, ma anche la prima di dicembre. Sì. Potremmo proprio arrivare a Capodanno. A Capodanno, sì. più o meno così. No, ma perché poi c'è un'altra cosa molto. Adesso, oltre al referendum, c'è il famoso verdetto della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Ah, beh, imprescindibile. Che stanno immaginando di spostare a dopo il referendum, per cui niente, io ho scritto un pezzo oggi per l'inchiesta intitolato Lentocrazia, il punto in questa sì. parola. Sì, lentocrazia. Cioè, ma invece di parlarne un mese, votare è da sei mesi che se ne parla, si voterà forse, cioè se forse, sì, forse sicuramente prima si voterà, votare, si voterà sicuramente votare. Tra due o tre mesi. È così. Vorrei capire però se davvero è in gioco la democrazia. Su questo Corona, lei che non è mai anche tenero con Renzi, ha ragione a dire che non è che la democrazia è in gioco con questo referendum. Sì. È chiaro che deve dirlo. La democrazia è in gioco, almeno alcune correzioni alla democrazia, chiamiamole così. Sì. È ovvio che lui deve innanzitutto portare avanti il tempo questo referendum, perché così si prepara, si aggiusta, cerca di convincere, si assolda nelle sue file artisti e poi lui è un uomo, dovrebbe sapere Renzi che giù alle Piastre, nella sua Toscana, c'è il campionato della bugia, dovrebbe iscriversi, che sicuramente ultimo non arriva. Ah. Sì, c'è il campionato famosissimo della bugia. E che si fa? Si va lì e si dice la bugia? Va lì, ma è famosissimo, si va lì e si racconta una bugia. Vince chi la spara più grossa, ma vincerebbe di sicuro Renzi. Ovviamente con il suo fare roboante, perché adesso ha assunto un tono anche Io guardi che l'ho anche votato Renzi a suo tempo, non è che... Lo so, ce l'ha detto con un tono un po' dimesso già varie volte. Questo assunto, questo tono così, quasi ducesco, ha capito che è a rischio, quindi protrae nel tempo la data e cerca di farsi, e poi di farsi una protezione assieme a chi ci starà con lui. Dopodiché questi proclami della democrazia non è... Io credo che si stia creando con queste sue leggi, leggine, queste protezioni, si sta creando un feudo dal quale non si può più tirarlo via, nemmeno col voto. Nemmeno questa è la democratura di Predrag Matvejevic, che è un ibrido di democrazia e dittatura. Insomma, fare Ducesco, bisogna capire se in Italia il potere va tenuto... solo così, con il pugno duro, no? Perché altrimenti si fa la fine. Io lo dico sempre: si fa la fine di Enrico Letta, no? Che invece sembrava più una persona, no? Compassata, più una persona. Flavia Perina, mi sembra, no? Che questo è il tono. Cioè, o uno si circonda di persone forti, pronte appunto a serrare le fila, a dire siamo qui al potere, oppure ti fanno fuori in 4 secondi in Italia. Penso che sia stata una deriva un po' muscolare della politica italiana, questo è fuori dubbio, ma non è soltanto. Ci sono 20 anni che l'ostentazione di Tuscoli è proprio una cifra della politica italiana. Devi essere molto assertivo, devi farti vedere forte, devi soprattutto creare una specie di cittadella dove ci stanno soltanto i tuoi, dove nessuno si può tradire. Ultimamente questa cosa qua è diventata proprio un po' un'ossessione a tutti i livelli. Vediamo anche quello che sta succedendo a Roma, non è che capita soltanto a Renzi. Qua tutti tendono a fare dei fortini, delle roccaforti, perché tutti si sentono un po' assediati e da un'opinione pubblica che ha votato molto spesso in modo sorprendente, ha votato contro i leader, ha votato contro... Pensiamo alla vicenda del PD. Il PD è passato nell'arco di un anno e mezzo, da un 40% a risultati elettorali dove ha perso 1 milione di voti. È ovvio che la politica tenda ad arroccarsi, no? Perché può succedere di tutto. Io vorrei, però, Corona, al di là delle critiche, cosa dovrebbe fare allora Renzi? Cosa, una proposta così da un intellettuale che... Fare le votazioni, andare a votare. Ah, perché avete votato? È stato votato Renzi, si è arrampicato su così. Però non lo decide lui, lo decide qualcuno. E se c'è la fiducia in Parlamento? Che fiducia? Questa è una fiducia raffazzonata qua e là, con una confusione... È passato per merito di confusione, è qui che comincia a scricchiolare la democrazia. Lì c'è uno che non è stato votato, punto. Come si è detto su Monti, come si è detto su Letta, se vogliamo, anche, no? E come no, siamo una patria, chiamiamola patria, che dove è al potere qualcuno che non è stato votato. Però sa che in Italia non è che si vota il Presidente del Consiglio, si legge il Parlamento e poi... leggiamo. Lì c'è una persona che non è stata votata dalla gente, allora la gente conta ancora qualcosa o no? Perché se non conta niente la gente è dittatura. Ma la gente vota il Parlamento, cioè abbiamo votato per nome. Ho capito, ma allora mi ci metto anch'io, posso essere anch'io un giorno Presidente del Consiglio. No? Volendo, perché no? Se ha una maggioranza in Parlamento. Ma è una nazione che si fa ridere ma è possibile che decida qualcuno che non è stato, allora il popolo non conta più nulla. Ora io non so adesso i meccanismi per andare a votare, ma credo che si debba votare o no? Sì, si debba votare. Quello lo decide il Presidente della Repubblica quando ma il Presidente della Repubblica è ancora napolitano, lo dovete capire o no? Il vero Presidente Ombra, Presidente no? Il Presidente della Repubblica è ancora napolitano. Del quale Corona non gode, non stima tantissimo. È fuggito come un codardo dal 50° del Vajont. È andato dappertutto a Lampedusa a omaggiare doverosamente i terremotati del Friuli, per carità. Qui, 50 anni fa, 53 oggi, nel 50° non è venuto sul Vajont dove hanno ammazzato 2000 persone. È fuggito come un codardo. E a me non sta proprio simpatico. Perina, è così come essendo io un uomo di sinistra, la sinistra c'è ancora, il PD non. Renzi è un democristiano, mi venite a dire che è del PD Renzi. Non lo so, è di sinistra Perina Renzi. Ma Renzi, nessuno è più di sinistra o di destra in Italia, grosso modo sarà anche interessante vedere adesso queste novità che succedono nell'area del centrodestra, perché oggi il problema della politica italiana è distinguersi, nel senso che la sinistra e la destra non si capisce più bene in base a che cosa si distinguono, nel senso che Renzi ha fatto alcune riforme che piacevano oggettivamente alla destra, la riforma del Job Act l'avrebbe potuta fare tranquillamente Berlusconi senza credo forse cambiare neanche una virgola, così come a destra c'è una anche negli atteggiamenti, nel, sai, prima la caratteristica principale della destra era appunto avere questi leader molto popolari, assertivi, Berlusconi è stato un leader molto amato eccetera, anche in questo diciamo si confondono le cose, anche la sinistra adesso ha un leader molto assertivo, contestato, però al tempo stesso amato da tanti dei suoi. Oggi è molto difficile usare queste categorie per distinguere le proposte politiche. Sì. Sarà interessante vedere che cosa fa Parisi a Milano. Parisi. Beh, per ora ospiti segreti, non si sa, ma non si sa chi ci sia. Il problema principale di Parisi non sarà tanto chi porta sul palco, ma appunto differenziare. Cioè dire, far capire per quale motivo lui è differente appunto da Renzi o da una proposta che viene da quell'area politica, perché fino adesso non è che se lo si è capito tanto bene. Ma lo vedremo oggi, qualcosa si capirà che cosa farà Parisi. Allora, devo andare a dare le informazioni sul traffico. Oh, sicuramente uno di destra è Gasparri, tra poco lo sentiremo dopo il traffico, intanto tenetevi forte. Ministro, non so come agganciare la locomotiva a una ragione per votare sì al referendum. Per il progresso, la locomotiva, il sì e il progresso, il sì per il progresso. Se il popolo italiano è ignorante è perché voi date sempre notizie del cazzo. No, però dai ragazzi, cause contro cause per la schiscia, poi per forza che i tribunali sono intasati. E mettiamoci anche la testa sui giornalisti là, che zio, boh, tante che ne sparano, che fanno altro che un danno sociale. Di Maio è la perfetta esemplificazione di quello che una volta disse Oscar Wilde: a volte è meglio tacere e sembrare un deficiente che aprire la bocca e togliere ogni dubbio. Is teaching the golden rule, American history and practical man. You study him hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Vorrebbero essere interpretati i big di Forza Italia? Neri Marco Re, ovviamente, se ci fosse la voce, ma anche il trucco potrebbero risparmiare. Ogni tanto mi prendono in giro per una cosa che io non ho detto, l'ha detta mia moglie Al Pacino. Non so se si è capito, ma Gasparri dice: mia moglie dice che io assomiglio ad Al Pacino. Ora io vorrei fare ricorso a un grande amico di Lombroso, un grande stimatore di Lombroso, mio amico Mauro Corona. Ci ha detto più volte di essere stimatore di Lombroso, le persone, no? È vero, Corona? Beh sì, stimatore, altro che, perché Lombroso va rivalutato, perché la cultura, la genetica, anche la formazione che comincia da bambini, sì, lascia tracce sui volti. Sui volti, ecco. Al Pacino, ha presente Al Pacino? Ma certo, Al Pacino. Le sembra Gasparri? Beh, a dire la verità no, però... non so, la moglie di Gasparri dice così, la moglie. Ma di... può darsi anche che io non abbia questa... finitezza nel giudicare, ma non mi sembra proprio no. Non mi sembra proprio Al Pacino, no, effettivamente no, no. So Flavia Perina poteva puntare più in alto, poteva dire Brad Pitt, insomma, sì, ma esatto. Limitarsi ad Al Pacino, insomma. L'amore delle mogli, e invece c'è questa che dovrebbe conoscere Corona, perché è anche lei una montanara, diciamo così, è di Bolzano, credo. Micaela Biancofiore, la conosce la Biancofiore? Ma, sì, la conosco per averla vista in TV, forse abbiamo avuto anche un incontro da Gilletti, ma non sono sicuro. Non so, ecco, perché la Biancofiore invece si definisce così. René Zellweger, mi sento molto Bridget Jones in salsa istituzionale. Si sente molto Bridget Jones, ha presente René Zellweger. Ma forse che salva l'umanità è questa illusione di credersi superiori a quello che siamo, beh, anche fisicamente. Bridget si Jones. Vive di illusioni, sì. È come Renzi. Eccolo lì, come Flavia, andiamo sempre lì. Sì, sì. Vabbè, è ossessionato, no, c'è questo pallino e bisogna capirlo, però... Ognuno si guarda allo specchio e sa un'idea di se stesso, ma che si deve dire? Io sono l'autostima, evidentemente viaggia a mille. Viaggia a mille. Dove sei finita, Flavia? Non ti sentiamo più bene adesso. Ecco, però non mi senti più bene. No. Io sono sempre allo stesso posto. Adesso un po' meglio. Okay. Allora, però io vorrei capire questa cosa sulla, ci sono polemiche sui giornali sull'uso dei social network, noi e i social network, no? La vicenda ovviamente di questa donna che si è tolta la vita dopo questi video che ha fatto. Mauro Corona, che rapporto ha con i social network? Guardi, se io dovessi mettere in denuncia gli insulti, la ferocia, tra l'altro tutti anonimi, questi vigliacchi anonimi, io potrei vivere con i risarcimenti e potrei sanare l'Italia. Ma chi la insulta? Dove? Perché se lo sapessi andrei a sfidarli a duello come nel Medioevo. No, cioè, basta che io dica una frase, o anche a oggi questa piccola intervento, sì, e ci sono questi ma dove? Su Facebook? Sì, su Facebook. Perché io non seguo personalmente, cioè, ho una figlia che io non so neanche cos'è, sinceramente. Ma cose feroci, cose che non proprio, e ha rivelato, se mi permettete un secondo, questi nuovi metodi di informazione hanno veramente rivelato il polso dell'umanità, di una ferocia incredibile, quindi bisogna solo lasciarli fare. Quando l'anonimo mi verrà a un metro, allora saprò come fare. E io ho un'idea di come saprà risolvere la questione. La vigliaccheria, c'era quella bambina che, se osò dire, che era a favore delle sperimentazioni sugli animali perché aveva un cancro, credo sia già morta. L'hanno veramente massacrata. Quindi la mela rosicchiata ci ha fregato due volte, la prima con Adamo ed Eva e ora con Apple. Non è, non è che il diavolo è la rete, la tecnologia, il diavolo. Il diavolo siamo noi, il diavolo sono le persone, la rete in tante circostanze, già gli italiani sono tifosi di carattere, come la curva di uno stadio. E bisogna insegnare ai ragazzi che in curva allo stadio non è che tu dai il passo alla curva qualunque emozione, qualunque sentimento, qualunque episodio della tua vita, perché insomma le persone sono così, lo sappiamo. Diciamo, una volta tutto questo si faceva in paese col pettegolezzo delle vecchiette o del gruppo di ragazzi sul bordo del muretto. Sì. Adesso la stessa dinamica si svolge la rete, bisogna essere consapevoli. Sì, c'è da dire che però qui dispiace molto parlare, perché questa donna si è tolta la vita, ma proprio si è messa in una situazione volontariamente Corona, cioè in questo caso non immaginava le conseguenze. No, certo. Però bisogna spiegare che le conseguenze possono essere. Le conseguenze sono purtroppo, se uno si filma in atti sessuali e affida anche a una persona, due persone di cui si fida. Si fida, Corona, fidarsi delle persone. Ci si deve fidare delle persone. Però anche lì sì, c'è da dire che ha fatto questo filmino e l'ha fatto vedere. Insomma, è una cosa un po' incauta, un'azione. C'è da dire anche della fragilità, perché avrebbe potuto benissimo fregarsene. Sì, vedetemi. Sì. Queste cose qui le fanno tutti, è solo che non le mettono in rete, forse. E quindi ha avuto questa ma da qui a togliersi la vita, poverina, ma è veramente. Ma lascia che guardino, avrei detto io. Guardate che bella e che carina sono. E avete invidia che non lo fate anche voi. Cioè, poteva cavarsela, però. Non ce l'ha fatta. Però io vorrei capire veramente come finirà questo duello. Cioè, se lo trova un metro, Corona, uno di questi, e che dice? Ma no, su certi bastardi veramente che non che hanno detto delle cose addirittura, ma non sto qui nel dettaglio. Io parto. No, perché la cattiveria bieca, bastarda, carogna, proprio mirata a gente che sì, che non ho fatto nulla, perché avessi offeso qualcuno, non ho fatto nulla, ha detto solo le sue idee. Allora, guardi, non so se me lo vedo davanti cosa succede. No, vediamo che non succeda. Intanto vi ringrazio, Mauro Corona, vi ricordo La Via del Sole, oggi ne parla anche a Pordenone, legge il suo ultimo libro, e grazie a Flavia Perina, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Anquo, Alessandro Mila, e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanki, skate? 24 mattino. Ebbene sì, cari ascoltatori, la 176esima settimana decisiva per l'abolizione delle province si conclude oggi, venerdì. Confidiamo nella successiva settimana. Come sempre, siamo ottimisti nella rassegna stampa di 24 mattino. Siamo pronti a leggere i giornali, vediamo che cosa ci offre oggi il menù. Oh, non sanno di che parlare i giornali, È venerdì 16 settembre, intanto le aperture dei giornali. Il Sole 24 Ore apre sulle stime, il rapporto del Centro Studi Confindustria sulla crescita dell'Italia. L'Italia frena, PIL a più 0,7%. Per il Corriere della Sera invece il caso Roma, Raggi, attacco dai 5 Stelle. Per il Messaggero, caso Raggi, Movimento 5 Stelle in frantumi. Repubblica apre invece sul dibattito ieri, la festa dell'unità tra Renzi e il presidente dell'ANPI. Renzi, scontro con l'ANPI, a casa solo se sfiduciato. Il comitato per il sì senza soldi, questo è il titolo invece del Fatto Quotidiano, che ha anche però una doppia apertura sulla RAI. La RAI se ne frega di Cantone. Ieri il Fatto anticipava questo rapporto sulla irregolarità o illegittimità di alcuni contratti in RAI. Per la Stampa, manovra, tagli per 5 miliardi. Questa è la previsione. Libero, arrivano 235.000 migranti, si annuncia una catastrofe. Questo è il titolo di prima pagina, mentre il Giornale, che ieri pubblicava la foto del commissariato di polizia di Ventimiglia con degli immigrati a dormire per terra, risponde, replica su questo tema: polizia allo stremo, Alfano e Renzi vengano a vedere il caos Ventimiglia. Queste le aperture di alcuni quotidiani. Vedremo anche altre nel corso della rassegna stampa. Intanto voglio partire dagli articoli, a cominciare da questa notizia che è pubblicata solo su Repubblica in prima pagina, riguarda uno dei sindacati italiani, la UIL, e un processo. A processo i segretari in crociera coi soldi della UIL. A processo, racconta Giuseppe Scarpa in prima di Repubblica, anche l'attuale segretario nazionale Carmelo Barbagallo. In crociera coi soldi della UIL, l'accusa a cui devono rispondere il segretario nazionale Barbagallo e il suo predecessore Luigi Angeletti. I due sono imputati per concorso in appropriazione indebita con altri 6 esponenti di spicco del sindacato. Ma non è tutto. I PM che indagano, Stefano Pesce e Paolo Marinaro, sostengono che tra il marzo 2010 e il maggio 2012 i soldi della UIL siano stati spesi anche per l'acquisto di gioielli da Swarovski per oltre 7.000 euro e un soggiorno al California Camping Village in Toscana. Con Barbagallo e Angeletti sono sotto processo, si trovano a processo, numerosi alti dirigenti della UIL: Goffredo Patriarca, Giuseppe Caronia, Romano Bellissima, Salvatore Bosco, Luigi Simeone, Ubaldo Conti. Scrive Repubblica, inchiodarli ci sono i movimenti bancari, come un versamento di 16.456 euro per finanziare le vacanze di Angeletti e Barbagallo con l'indicazione contributo per progetto condiviso. In realtà era un bonifico a favore di Costa Crociere per una crociera, secondo l'accusa. E ancora, gli inquirenti contestano un altro episodio, viaggio con le stesse persone e modalità del precedente, del costo di 16.000 euro pagato il 27 maggio 2011, questa volta sulla Costa Favolosa, una nave extralusso con cinema, casinò, spa, discoteca, shopping center e teatro. E ancora, l'accusa dice: Goffredo Patriarca, all'epoca dei fatti tesoriere sezione trasporti, si sarebbe appropriato della somma di 2.900 euro per pagare un soggiorno a Ubaldo Conti al California Camping Village, con la madre anche di Conti e il nipote. E poi i gioielli Swarovski, 2.800 euro in un caso, 1.700 in un altro caso, poi ancora 1.935, 630 euro. Eccolo qui, crociere gioielli coi soldi del sindacato a processo i vertici Will. Questa è la notizia che trovate in prima pagina di Repubblica. La RAI invece, la RAI, beh, ieri il Fatto Quotidiano anticipava questa relazione dell'ANAC, e dunque Cantone, nella quale c'era scritto, secondo il Fatto, che alcuni contratti in RAI erano illegittimi. E infatti oggi tutti tornano su questa relazione che è stata depositata. Nomine illecite, ma in RAI nessuno rischia il posto. Questo scrive il Fatto Quotidiano riprendendo la notizia che aveva dato ieri. Per la verità, il Corriere della Sera con Giovanna Cavalli e Andrea Ducci racconta che qualcuno rischia il posto dopo la denuncia dell'ANAC, limiti e carenze nelle nomine RAI, per esempio. C'è una persona che è stata reclutata, un dirigente francese, ex ministro francese, che è stata reclutata da un cacciatore di teste, di una società di cacciatori di teste alla cui presidenza c'è il padre, e allora questa persona verrà rimossa, questo dalla RAI, la sua nomina verrà revocata. Questo almeno dice il Corriere della Sera, anche la Stampa. La RAI nel mirino anticorruzione per le nomine di 12 dirigenti esterni. Cioè, tra questi abbiamo sentito anche Marta Cagnola. C'è anche la nomina di Gianluca Semprini, che è stato chiamato per condurre Politics. Ecco, invece il direttore della security aziendale Jean-Cyril Cantourné, appunto, è stato selezionato dalla società di cacciatori di teste in cui lavora il padre, ecco, non è il presidente, in cui lavora il padre, e quindi può darsi che lui in qualche modo debba pagare. Però vedremo, certo la relazione di Cantone c'è. Oh, c'è poi questa cifra, torno su Repubblica, per questa notizia che Stefania Maurizi racconta, pagina 19, e che riguarda, non so se vi ricordate, un cooperante italiano, Giovanni Loporto, che era stato rapito in Pakistan, è rimasto rapito, ne si è saputo praticamente nulla per mesi e mesi, e poi è rimasto ucciso in un raid antiterroristico americano, una bomba sganciata dai droni. Ora viene fuori questa vicenda. Gli Stati Uniti hanno pagato 1.185.000 euro ai familiari di Loporto. Si tratta di una donazione non dovuta, ma, come dire, con tanto di firma dal notaio per chiudere il caso. $1 milione, così gli Stati Uniti chiudono il caso Loporto. Ecco, $1 milione, 1.185.000 euro. Il cooperante italiano rapito in Pakistan rimase ucciso in un raid antiterrorismo dai droni americani nel 2015, e un atto siglato da un notaio di Roma a luglio prevede questa donazione per escludere responsabilità giuridiche di Washington. È un pagamento che non è un risarcimento, ma solo una concessione a titolo di favore, ex gratia, appunto, una formula che non comporta alcuna assunzione di responsabilità giuridica. Si tratta soltanto di una donazione da parte degli Stati Uniti in memoria del signor Giovanni Loporto. Questa è la dicitura, e Repubblica racconta di questo atto che viene pubblicato a pagina 19. Cari genitori, soprattutto cari papà che state portando i figli a scuola, sappiate che le vostre mogli, compagne, insomma le mamme dei vostri figli contano di più. E questo dite, beh, già lo sapevamo, grazie per questa informazione. No, ma proprio contano di più, soprattutto incidono di più. E in che campo? Nell'ambito dell'apprendimento scolastico dei vostri figli. È una ricerca molto interessante, Education at a Glance 2016. Per avere successo a scuola, la mamma conta più del papà. Nel senso che questo rapporto OCSE, raccontato da Gianna Fregonara a pagina 22 del Corriere della Sera, svela che è proprio la madre ad azionare l'ascensore sociale, la speranza del futuro nei figli. Né i papà né la scuola riescono a offrire ai ragazzi la stessa opportunità. E cioè, nelle famiglie in cui la mamma è riuscita a completare le superiori, il 91% dei figli riuscirà a completare le superiori. Immagino che valga anche per diplomi come la laurea. Comunque è la mamma più del papà ad azionare l'ascensore sociale negli studi dei figli. rassegnato. Quindi avete con questo articolo la bella autorizzazione, cari papà, a dire i compiti. Care mamme, fateli fare voi, tanto siete voi che incidete con la vostra cultura, col vostro percorso scolastico sui figli, mica noi, poveri tapini, poveri uomini, poveri papà. Vado a giocare a calcetto con gli amici. Va bene, allora dai, si scherza ovviamente, ma la ricerca è molto molto interessante. Siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata. E rimaniamo sul Corriere della Sera, pagina 20. Fulvio Buffi e Fiorenza Sarzanini raccontano la storia del generale Giuseppe Mango, che a gennaio sarebbe diventato il comandante in seconda della Guardia di Finanza. Prima una soffiata, poi la lettera al legale, i PM dicono così il generale svelò l'indagine al clan. Chiesta l'interdizione per il generale della Finanza Giuseppe Mango, attuale comandante interregionale del Veneto, carriera che sembra destinata a finire qui, i magistrati di Napoli gli contestano di aver soffiato notizie riservate su un'indagine in corso, aver svelato dettagli segreti di un'inchiesta, compresa la presenza di alcune cimici piazzate dai suoi colleghi per gli accertamenti su alcuni imprenditori e professionisti sospettati di fare affari con i clan della Camorra. Per questo i PM ne chiedono l'interdizione, vicenda che risale al 2014, eccolo qui, prima la soffiata, poi la lettera, i PM accusano così il generale della Finanza svelò l'indagine al clan. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo! State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Scuola cinese, milanese dell'informazione! Vabbè. Meno male che c'è l'Inter. Ieri ho scritto su Twitter, quando ho saputo in tardissima serata, di questa brillante. Com'è che erano i vecchi titoli? Chiama Milano 02. Vabbè, ma dai, vi rifarete alla prossima, noi poi in Coppa non ci siamo neanche, quindi potete sbizzarrire. Allora, cari ascoltatori, va bene, ieri è stata una giornata in cui c'è stato questo duello tra Renzi e il presidente dell'AMPI, Carlos Muraglia, sul palco della Festa dell'Unità a Bologna, ovviamente oggetto della discussione il sì o il no al referendum. Tra l'altro, referendum, quando sarà questo referendum? Si va verso una data, le urne, il 27 novembre, domenica 27 novembre. Questo almeno raccontano le indiscrezioni. Palazzo Chigi è orientata a quella domenica lì, anche se la finestra temporale include anche il 20 novembre o il 4 dicembre. Diciamo, tenetevi pronti e liberi dal 20 novembre al 4 dicembre, una di quelle tre domeniche dovrebbe essere quella giusta per votare. Comunque, Renzi, appunto, c'è stato questo duello ieri, 3.000 persone, quindi molto partecipato alla Festa dell'Unità. Scontro Smuraglia Renzi, carta stravolta, dice il presidente dell'AMPI. È falso, risponde Renzi. Il premier ai contestatori: a casa vado solo se sfiduciato. Tra l'altro, su questo vi segnalo un articolo oggi in prima pagina del Foglio, molto interessante, perché il direttore Cerasa racconta le opzioni. Che succede se vince il no? Anche se, dice Cerasa e scrive, è un'opzione che Renzi non vuole neanche prendere in considerazione. Come noto, ha scelto di spersonalizzare di colpo la partita referendaria, però alla domanda e alla prima questione, Renzi si dimetterà dovesse vincere il no? In un'intervista proprio al Foglio lo scorso giugno il premier disse e rispose: se il referendum andrà male continuerò a seguire la politica come cittadino libero e informato, ma cambierò mestiere. Però è cambiato qualcosa rispetto a questa affermazione? In parte sì, risponde Cerasa. In caso di sconfitta Renzi ha intenzione di dimettersi da presidente del Consiglio, ma non di dimettersi da segretario del PD. E questa scelta ha un'implicazione importante: non ci sarà nessun governo dopo quello attuale che potrà nascere senza l'assenso del segretario del partito più forte in Parlamento, ovvero Renzi. In caso di dimissione di Renzi ci sono tre scenari possibili: un nuovo governo Renzi, un governo di scopo costruito per modificare la legge elettorale o le elezioni anticipate. I primi due scenari sono semplici da immaginare, il terzo lo è un po' meno, non tanto per ragioni politiche, ma per ragioni tecniche. Infatti, in caso di vittoria del no al referendum, l'Italicum, se non viene bocciato dalla Corte Costituzionale, resterebbe in piedi così com'è solo alla Camera, mentre al Senato si voterebbe con il Consultellum. Se vi è venuto il mal di testa è tutto a posto, non vi preoccupate, però cercate di seguire ancora. L'Italicum infatti è un proporzionale con soglia d'accesso al 3% per liste e premio di maggioranza che scatta per la lista che arriva al 40%. Il Consultellum invece rischia di non dare una maggioranza al Senato. Insomma, diciamo che con la vittoria del no e le possibili elezioni anticipate la situazione un po' si complica, scrive Cerasa. Resterebbe in questo scenario un'altra ipotesi che non sfugge al Premier. Renzi perde il referendum, si dimette da Premier, Mattarella prova a formare un governo tecnico capace di draghettare il paese fino alla fine della legislatura. Insomma, gli scenari dopo la vittoria del no possibile, secondo il Foglio. Noi ci arzigogoliamo attorno al referendum, intanto come ieri il Centro Studi Confindustria ha fatto sapere, sono state limate al ribasso di 0,1 punti percentuali quest'anno e anche il prossimo le stime di crescita. L'Italia frena, il PIL a più 0,7 e più 0,5 nel 2017, quindi siamo ai decimali, sotto l'1%. Questo forse è un problema un po' più serio, qualcuno dice che è anche collegato alle riforme, ma non si sa se solo quella riforma costituzionale, magari riforme anche del lavoro, riforme della burocrazia, riforme della giustizia, riforme un po' più profonde. Comunque il PIL ferm da 15 anni, l'allarme di Confindustria è un titolo ovviamente che trovate su tutti i giornali. Come si ritrova la questione di Roma, i conflitti, gli scontri ieri? Tra l'altro, su Roma è interessante la deposizione che Raffaele Cantone, presidente dell'ANAC, ha fatto all'interno del processo Mafia Capitale. Carlo Bonini lo racconta, pagina 8, l'uomo di Alemanno insabbiò Mafia Capitale. È il racconto di come gli appalti andassero alle cooperative di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, e si chiede Cantone, in un complicato esercizio di diplomazia a scrivere pubblica, credo che il marcio di questa città stia soprattutto nella burocrazia. Se poi sia a valle o a monte non saprei dirlo in termini di percentuale. Credo che sarà il tribunale a stabilire se in questa vicenda siamo di fronte a dei concussi o a dei corruttori. Non spetta all'ANAC formulare ipotesi di reato, lo fanno i PM, noi ci limitiamo a segnalare irregolarità o criticità quando c'è un fumus di illecito penale. In pratica l'accusa di Cantone è questa: si sapeva già che c'erano delle irregolarità nel momento in cui gli appalti andavano alle cooperative di Salvatore Buzzi, eppure evidentemente a qualcuno stava bene così, o comunque l'autorità di vigilanza sapeva e non fece nulla sui contratti con le cooperative, le procedure irregolari. Questa è l'accusa di Raffaele Cantone. In tutto questo c'è invece il presente, cioè lo scontro politico, racconta il Messaggero, il Corriere della Sera, di una Virginia Raggi che ieri era sentita urlare per i corridoi del Campidoglio dai commessi. Qualcuno, il Messaggero racconta, in lacrime a chiamare Beppe Grillo: o mi difendete oppure mi dimetto, anche con l'accusa a dire quasi quasi dico sì alle Olimpiadi, cioè usare il ricatto alle Olimpiadi. E alla fine è arrivato un post di Beppe Grillo a dire: Virginia non si tocca. Racconta però il Corriere della Sera questa giornata molto tumultuosa dopo che sono venute fuori delle notizie su un uomo vicino a Virginia Raggi, cioè quel Marra che poi è stato spostato e che ha creato vari malumori, alto funzionario del Campidoglio. Perché? Giornata convulsa perché Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle lo ha definito il virus del movimento del caso Roma. E allora qui Virginia Raggi si è molto arrabbiata, ha chiamato Grillo, insomma, ira di Virginia: difendetemi o mollo. ma racconta, attenzione, il Corriere della Sera Ernesto Menicucci, che ci sarebbero 12 consiglieri del Movimento 5 Stelle pronti alla sfiducia al sindaco. Questo, secondo il Corriere della Sera, vuol dire che sarebbe un clima davvero di molta tensione. Al momento attuale ci sono 12 dissidenti definiti lombardiani, cioè vicini a Roberta Lombardi, che non va proprio d'accordo col sindaco, e questi 12 sarebbero pronti anche a sfiduciare in aula il sindaco di Roma. Staremo a vedere. Intanto qua si è nel dubbio. Le cose certe, appunto, è che ogni tanto uno può dire meno male che c'è l'Inter, o no? O no? Mauro Meazza, o no? Buongiorno, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Non saprei dire, ma erano 11 dissidenti dell'Inter in campo, non 12. Forse anche 12 o 13 con un paio di sostituzioni. Continui a parlare di 11 dissidenti, va bene. C'è una, come purtroppo non ho potuto vedere la partita perché cercavo invece quella del Milan, ma non l'ho trovata. Noi non siamo nelle coppe. Sdegno per scelta personale. Senti, parliamo di cose molto puntuali. C'è un pacchetto giovani, perché tu che sei giovane sei interessato. C'è un pacchetto giovani, scherzi a parte, nella manovra. Si prepara un pacchetto giovani, varrebbe 500 milioni, trovi tutti i particolari raccontati da Marzio Bartoloni, tra l'altro anche con estensione del bonus cultura e aiuti per le borse di studio, tutto quanto in preparazione alla manovra, di cui tutti i dettagli oggi nella pagina 5 del nostro quotidiano. Oh, ti vorrei, hai l'agenda a portata di mano? Eccola qua. Ecco, allora se ti segni per favore per il 2028, ce l'hai? Il 2020, sì. Non ce l'hai, no, perché è diciamo è la stima entro la quale, cioè sarebbe l'anno in cui torniamo ai livelli pre-crisi. Questo è spiegato, lo dicevi già, lo ricordavi già prima, le previsioni del Centro Studi Confindustria. Ecco, crescendo con questi ritmi torniamo ai livelli pre-crisi nel 2028, se per favore te lo segni, così ottimo, poi quando ci arriviamo 2028 che mese? Non è precisato, purtroppo, guarda, c'è questa informazione non completa. Poi ti devi assolutamente segnare invece più vicino che entro il 2017 l'Unione Europea è intenzionata a varare una blacklist di paesi fiscalmente non abbastanza cooperativi. Trovi già tutto un dettaglio dei paesi, di giudizi dei paesi nel dorso, nelle pagine di norme e tributi che tu leggi come sempre. Allora, norme e tributi, religiosamente. Meno male, perché guarda, sai che qua sta diventando imbarazzante questa cosa. Comunque, il blacklist dell'Unione Europea, che invece arriva molto prima del 2028, cioè il 2017. Ottimo. Non sappiamo se nel 2017 o nel 2028 si risolverà la questione delle grandi navi che entrano a Venezia, perché come ti riferisce Jacopo Di Liberto nelle pagine di Imprese e Territori, che tu leggi scrupolosamente, ci sono sì tre progetti, però sono tutti e tre fermi, quindi per intanto le navi continuano ad andarci, quelle grandi da crociera che poi si vedono in queste foto anche un pochino inquietanti. Ti voglio dire che settimana prossima ci saranno le sfilate a Milano, sì. E ne riferiamo oggi perché, come sai, essendo venerdì c'è Moda 24, e poi che invece è quasi imminente il ritorno del petrolio libico sul mercato. Molto interessante il contributo di Sisti Bellomo nelle pagine di Finanza e Mercati a proposito di materie prime, pagine che tu leggi avidamente. Oh, ma vedo che piano piano ti prepari. Per il 2028 ce la farò. Articolo da meditazione anche per oggi, il consiglio dell'articolo da meditazione è la supplentite delle scuole italiane, okay. Lo trovi nelle pagine dei commenti. Stimiamo 80.000 supplenti ancora in esercizio, in calo, ma diciamo in un calo molto lento. Adesso vediamo se tra il 2017, 18 e 28, quando riusciremo ad avviare la soluzione a questo problema. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, io ti vorrei fare tanti cari auguri per un sereno fine settimana calcistico. Grazie, torniamo grazie. Alle vecchie abitudini, così immagino che tu farai per me, e quindi a questo punto traffico. Alessandro Milan, il ciaone al referendum dell'informazione. Vabbè, vedremo. A proposito di politica, invece, cosa svelerà oggi Stefano Parisi, che lancia con una nuova kermesse, così si suol dire, il centrodestra. Tra l'altro il giornale comprensibilmente dedica due pagine a questo, racconta Fabrizio De Feo a pagina 5 anche una sorta di ritorno di Berlusconi, guiderà infatti l'ufficio di presidenza, il leader presiderà la riunione convocata a Palazzo Grazioli per definire la strategia di Forza Italia nei prossimi mesi, in qualche modo è un ritorno. Ah, tra l'altro curiosità, anche se per ora non è più che un'indiscrezione che impazza sul web, nel film su Berlusconi che Paolo Sorrentino sta mettendo a punto dal titolo Loro, sapete chi potrebbe interpretare Berlusconi? Sapete chi? Massimo Boldi, così almeno racconta il giornale. È una notizia che ho letto anch'io, ha detto Boldi, sarebbe un onore lavorare con Sorrentino, no comment, staremo a vedere. Vabbè, chissà se è un'indiscrezione oppure no. Allora vi segnalo sempre su Roma un'intervista che Sergio Rizzo del Corriere della Sera fa a Manlio Cerroni, il RAS dei rifiuti come viene definito, colui che ha lavorato con 34 sindaci, il patron di Malagrotta, la discarica di Malagrotta, anche se è chiusa ormai da un po' di tempo. Il 18 novembre compirà 90 anni, da appuntamento proprio a Malagrotta, e dice Cerroni: se vogliono salvare Roma l'unica soluzione è riaprire Malagrotta. Nel 2013, dopo la chiusura della discarica, è stato grazie a quell'impianto a Rocca Cencia, da 1000 tonnellate al giorno, che la città è stata salvata dall'emergenza. Poi un bel giorno che succede? L'ex presidente dell'AMA Fortini decide che lì i rifiuti non devono più andare. Ma la chiamano il Supremo. Chi la voleva far fuori? È Fortini, è stato, cioè Ignazio Marino. A Marino ho chiesto: chi te l'ha fatto fare? Vedo che ha ascoltato il mio consiglio. Lo liquida così Cerroni, che poi passa a Virginia Raggi al 5 Stelle. Intanto definisce Paola Muraro, assessore all'ambiente di Virginia Raggi, una persona di buon senso. E sulla questione di Virginia Raggi dice: mai dato soldi ai partiti, contributi elettorali regolarmente denunciati, ai 5 Stelle no signore. Ha votato per Virginia Raggi, io voto a Pisoniano. Vabbè, avrebbe votato Virginia Raggi a Roma? No. Per fare il sindaco non ci si alza dalla sera alla mattina. Per loro noi non esistiamo. 3 volte in campagna elettorale la Raggi ha nominato Cerroni come il male assoluto. Così Manlio Cerroni: io, il supremo dei rifiuti, esclusi 5 Stelle, ho sostenuto tutti i partiti. Questo è il titolo di prima pagina. Oh, ci sono ancora tante polemiche, tanti dibattiti sulla vicenda, sulle due vicende, se volete, che riguardano i social, le riprese, soprattutto il caso di questa donna che si è tolta la vita, Tiziana Cantone, dopo i filmati hard. Però ci sono anche tanti articoli riguardo a quella vicenda allucinante della 17enne stuprata in discoteca. Intanto le amiche hanno filmato e hanno messo tutto condiviso su WhatsApp. A che ora dobbiamo chiudere? Tra poco dobbiamo chiudere? Va bene, tra 30 secondi. Allora faccio in tempo a leggere solo questo. Queste ragazzine che dicono aiutarla non ci abbiamo pensato. I verbali shock delle ragazzine, leggeteli sul Giorno, a pagina 3, Alessandra Nanni. Alcune delle ragazzine dicono: volevamo solo vedere. Pensate che una dice: ma perché non ha fermato la violenza sessuale, ha filmato e ha continuato a filmare? Volevo farla vedere il filmato alla mamma della vittima. Ma che razza di giustificazione è? Io capisco che di fronte forse alle domande dei PM e di fronte alle delle risposte che non esistono, ecco, la risposta è stata: volevo fare vedere la violenza alla mamma della vittima, e quindi la filma. Vabbè, andiamo alla carta costa, dai, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina sul Corriere della Sera che ci spiega come nascono le emoticon. Sapete quelle faccine buffe, ridi, piangi, scherzi, abbracci, baci, le emoticon. Come nascono queste emoticon? Ma chi se ne frega!